Summertime di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno, bentornati e benvenuti a Summertime. In questa puntata del 16 agosto abbiamo con noi uno dei maggiori musicisti italiani in una tournée estenuante, Giovanni Allevi. Buongiorno Giovanni. Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito e saluto con affetto anche i radioascoltatori. Allora, intanto bentornata a Summertime. Tu l'anno scorso eri in tour e quest'anno sei in tour, però quest'anno è un Alien World Tour. Perché un tour alieno? Ce lo spieghi? Perché sì, perché abbiamo rotto le regole, siamo andati oltre gli schemi predefiniti e propongo in questa tournée una musica che vuole essere lontano dalle esigenze discografiche, dalle esigenze del mercato, da tutti i vincoli, da tutte le gabbie, dove però c'è solo il cuore, che il mio e quello dell'ascoltatore, che entrano così in un amoroso contatto. Questo è il tuo album numero? Ah, non mi ricordo. Quindi credo numero 6, 5, 6, 7, boh. Quindi praticamente, siccome è il numero 5, 6, a un certo punto hai detto: adesso decido io, voglio fare una musica alien. Ma tu dici, sì. Ti senti un po' alieno tu, perché? Certo, perché se no non potevo farlo. Sì, ci vuole una vita comunque, no? Per arrivare a questa condizione, che di fatto altro non è che la libertà di espressione al massimo livello. Posso permettermelo perché c'è l'affetto dei fan che si stringono attorno alla mia musica e dunque mi danno la possibilità di esprimermi in totale libertà. Giovanni, suona e scrivi quello che ti pare, questo in sostanza. Quindi ce l'hai fatta. E poi tu dici: gli alieni siamo noi, che con la nostra sensibilità cerchiamo lampi di poesia tra le pieghe dell'esistenza quotidiana. Beh, insomma, questo è un po' toccante. Tu che fai? La mattina ti svegli, giri, vai in giro e cerchi quell'attimo, quel momento da ricordare? Ma certo, io sono preso dall'ansia. Poi mi guardo intorno e cerco comunque di assaporare la vita secondo per secondo, senza dare troppa importanza alle aspettative del futuro, senza dare la minima importanza a quello che ho fatto nel passato, e dunque l'ideale sarebbe quello di riuscire a vivere in un eterno presente, un po' come fanno i bambini, come fanno i neonati, ecco, riuscire a recuperare quell'ingenuo stupore, quell'incanto. Ecco, tu sei in giro dal 6 luglio, adesso stasera stai a Lamezia Terme, oggi 16 agosto, e poi fino al 27 agosto in Italia. Dopodiché inizi una tournée internazionale l'8 ottobre a Lugano, il 16 ottobre a Parigi, il 18 a Berlino, ottobre, il 21 a Barcellona, Madrid, per finire il 27 a Londra. Sei un po' intimorito dal palcoscenico internazionale oppure la tua musica fa talmente tanto sognare che poi alla fine il pubblico è sempre emozionato? Intimorito, io me li mangio, non vedo l'ora. No, a parte che mi hai preso in un momento di grazia, per cui meno male. Sono proprio contentissimo di proseguire il tour in Europa e poi dopo comunque c'è proprio la parte finale del tour, che è in Giappone, cioè il ritorno in Giappone, ma sono contentissimo, incontrare il cuore delle persone attraverso la musica strumentale, indipendentemente quindi dai confini geografici, dalle differenze culturali, è qualcosa di assolutamente entusiasmante. Non mi interessa neanche il numero, saranno tanti, pochi, non mi interessa. Io darò tutto me stesso su quel pianoforte. Ecco, tu oltre a essere musicista, andiamo pure alle tue ulteriori attività, no? Sei proprio alien, sei proprio un po' alieno, perché prima di tutto hai suonato con la All Stars Orchestra all'Arena di Verona, quello che è stato un momento magico. Quello è stato un momento bellissimo. Non c'era il fantasma questa sinfonica di Noè. Pronto? Sì, non c'era il fantasma di Pavarotti lì dietro, no? Ah, probabilmente lo spirito che ci infondeva entusiasmo. Però eravamo proprio contenti, perché abbiamo affrontato un concerto di 2 ore di musica sinfonica completamente originale, cioè tutta musica nuova, e quelle 12.000 persone erano lì a darci il nostro sostegno, a regalarci un'emozione, ecco, che ha reso quel giorno per noi indimenticabile. Sei anche un autore di libri, perché insomma hai venduto oltre 100.000 copie, molti romanzieri sarebbero contenti, no? Di poter vendere così tanto. La musica in testa e in viaggio con la strega, che cosa racconti in questi libri? Di fatto sono il mio diario personale che affronta anche delle riflessioni filosofiche su quanto mi accade, sul significato della musica, cosa significa suonare il pianoforte, ma sono elementi che comunque riguardano la vita di ognuno di noi. Di fatto mi confronto con il sogno, cosa significa impostare tutta la propria esistenza alla luce di un sogno, di quella scintilla che brilla, gli impedimenti materiali intorno a noi che fanno in modo che questo sogno stenti a realizzarsi, poi ogni tanto si accende davvero una luce da qualche parte. Ecco, questi sono fondamentalmente i miei libri. In viaggio con la strega, chi è la strega? La strega capricciosa che ha monopolizzato la mia vita è la musica. Io la immagino una donna bellissima che vuole essere amata, vuole essere corteggiata, che mi sfugge e raramente ricambia le mie attenzioni. Però mica male come definizione, no? E un'altra cosa invece, oltre a essere un musicista, oltre a essere uno scrittore, sei anche un performer, perché tu durante i tuoi tour poi racconti, no? Tra una canzone e l'altra racconti un po' la tua vita. Dunque, si tratta di brevissime presentazioni che poi io riesco anche addirittura a fare nelle lingue dei paesi dove vado, anche qualcosa in giapponese, in cinese. Davvero? Non ci credo. Veramente. Però non hanno uno scopo didattico o didascalico, non vogliono spiegare qualcosa. Sono una sorta di mantra dentro cui mi immergo che mi permette di trovare la concentrazione per affrontare poi l'esecuzione del brano successivo, e mi serve anche per vedere il pubblico, cioè guardarlo, percepirne la presenza, l'emozione. Non so perché lo faccio, però mi serve. Senti, in questo pubblico tu ti immergi, però un'altra delle tue molteplici attività è quella del nuoto. Sì, oddio, quando è possibile. In prossimità di un concerto, magari nella città c'è la piscina, allora riesco a fare una nuotata, ma anche lì molto lentamente, in apnea, per avere la possibilità di ripassare mentalmente le note e poi per cercare di mantenere l'elasticità del corpo, non la forza. Perché per suonare il pianoforte o anche dirigere l'orchestra non ci vuole la forza muscolare, ci vuole una elasticità. Insomma, io devo diventare una specie di calamaro, ecco. Un calamaro addirittura. Sì, sì. Senti, ma parlando di nuoto, una domanda illecita. Hai tifato per la Pellegrini, sì? È la tua... Certo, no, ma io tifo soprattutto per quello che arriva ultimo. Io sono lì a fare il tifo. Tutto il mio affetto per la Pellegrini, però una nota di riguardo per chi non ce la fa, ecco, allora lì c'è il mio sostegno. E lì c'è la tua musica a sostenerlo. Un'ultima domanda è, tu ovviamente è una domanda un po' banale, però a noi ci interessa, visto che hai suonato in tutto il mondo, no? Il pubblico italiano e il pubblico giapponese li possiamo mettere come i due antipodi? Sono due culture, due pubblici, due generazioni, soprattutto di ragazzi che si amano tra di loro. I ragazzi giapponesi hanno un'ammirazione sconfinata per l'Italia, per gli italiani, addirittura studiano l'italiano per puro piacere, e quando poi ci incontriamo dopo il concerto mi dicono queste frasi per poter scambiare due parole con me. È bellissimo, è davvero commovente. L'Italia quanto è bella, l'Italia è meravigliosa. Vabbè, poi l'Italia è il nostro paese, pubblico italiano, mamma mia, me l'abbraccio alla fine, proprio me lo spupazzo ai limiti dell'accettabilità sociale, il mio trasporto nei confronti del pubblico. Quante ore suoni al giorno? Dunque, zero. Il mio studio avviene tutto in testa, attraverso un esercizio di concentrazione in cui ripasso nota per nota ogni singolo movimento. Poi incontro il pianoforte sul palco durante il concerto, e più sono stato concentrato e più poi la mia mano riesce a muoversi agilmente e sicura in quei passaggi. Allora Giovanni, è sempre un piacere assolutamente parlare con te, perché ci fai anche un pochino sognare, diventare alieni come te. Ricordiamo intanto l'Alien World Tour, il tuo ultimo capolavoro è Alien, il disco, e poi ricordiamo anche che questa sera sarai alla Lamezia Terme fino ad agosto in giro per l'Italia e ad ottobre il tour internazionale. Grazie Giovanni. Grazie, grazie per aver ascoltato le mie farneticazioni. Summertime. Arriva a San Michele Extra la fiancavata della modernità. La luce elettrica. La concessione di sole. Che questo nostro convento sarà distrutto dalle pie suore della misericordia. E così sta bella industria che fa grande suo paese. La ne faccia far le spese, la oro la ne tiene. Oh, fatti madre, stato madre. E adesso noi andiamo a Courmayeur, sì, in questa ridente località sciistica o comunque di vacanza in montagna anche d'estate, perché proprio oggi, martedì 16 agosto, alle Jardins de l'Ange, scusate l'accento francese non proprio eccellente, c'è uno spettacolo particolare, Le Trote Blu, con Marco Chenevier, che è il regista. Un teatro instabile. Che vuol dire un teatro instabile, Marco? Ah, buongiorno a tutti. Il Teatro Instabile è una compagnia che in questo caso lavora sul territorio in Valle d'Aosta, ma sono 6 anni che lavoriamo a livello internazionale con spettacoli di danza, di teatro, e veramente dalla Corea a Cipro all'India alla Polonia e a volte anche sul territorio come in questo caso. E questo è proprio uno spettacolo che racconta la storia d'Italia dagli anni 10 agli anni 50 e della condizione delle donne in questo periodo lungo di storia attraverso le canzoni, con due chantosi irresistibili, le Girlies, che attraversano un periodo di tempo lunghissimo, dai canti popolari degli anni 10 fino all'inizio del consumismo e della televisione negli anni 50. Ecco, io leggo: nel 1909, insieme alla luce elettrica, nascono in una poverissima famiglia di contadini veneti due gemelle. Crescono immerse nei canti della corte rurale, eccetera, eccetera. Poi, dopo la Grande Guerra, la famiglia è costretta ad abbandonare la terra e tutte le figlie diventano piccole operai. Poi le protagoniste inclini fin da bambine alle melodie cantate vengono scoperte dal maestro Angelini e cominciano la loro carriera di grandi dive. Esatto, è una storia inventata effettivamente, che è stata scritta dalle due autrici, Valentina Musolino e Emanuela Belmonte, che poi io e Emanuele Vallone abbiamo messo in scena. È un gioco, perché ovviamente sono due personaggi inventati di fantasia che attraversano questo periodo di storia e ricalcano le gesta del trio Lescano, del quartetto Cetra e anche dei canti popolari. Attraverso queste canzoni, attraverso anche questi momenti momenti storici, quindi dal mondo contadino degli anni 10 alla guerra mondiale, le profonde trasformazioni della società italiana dopo la guerra mondiale, poi l'avvento del fascismo, la seconda guerra mondiale e tutto quello che poi comporta la televisione e l'inizio del consumismo, quindi un grande momento di trasformazione per l'Italia su delle note musicali spesso molto molto divertenti, molto leggere, che nascondono però a volte anche dei significati un pochino più tenebrosi. Appunto questa canzone, Le Trote Blu, è proprio un titolo di una canzone non molto conosciuta, che racconta una storia un po' grottesca, però su delle note molto molto leggere. Un po' su questo chiaroscuro noi raccontiamo la storia dell'Italia e della condizione della donna. Allora, Le Trote Blu di che epoca è e di che cosa parla? A questo punto ci ha fatto venire un po' di curiosità. Meno male. Le Trote Blu è una canzone degli anni 50, però parla proprio di questa di un matrimonio all'interno di un paese che fallisce per un periodo di tempo abbastanza lungo, perché il fidanzato durante una gita in barca perde nel laghetto l'anello di fidanzamento, quindi la fidanzata si arrabbia terribilmente e lo lascia, non lo vuole più vedere. Ma poi durante una festa di paese viene aperta una trota che è stata pescata e viene ritrovato l'anello di fidanzamento. A quel punto il matrimonio può essere finalmente portato a compimento, però finisce la canzone con questo ritornello un po' dolce amaro, che dice appunto: sono tutti felici, sono tutti contenti, meno una trota che ormai non gira più nel laghetto. Quindi è appunto come tante canzoni divertente, perché è una storia sciocca, come tante di queste le storie raccontate dalle canzoni della musica leggera, però appunto è un po' grottesca, perché c'è una morte che porta a un matrimonio, quindi ridendo e scherzando a volte non si pensa neanche a dei significati un po' strani, storti, di queste canzoni, per l'appunto. E senti Marco, invece le altre canzoni tu hai citato, il Trio Lescano, il Quartetto Cetra, quindi che tipi di canzoni? Perché voi partite dal 1909, poi addirittura, sì. Quindi per esempio prima della guerra che canzone avete scelto? Abbiamo scelto prima della guerra alcuni canti popolari del Veneti, che erano utilizzati durante i lavori di campagna. Quindi questo prima della prima guerra mondiale, poi esatto. Il periodo poi fascista. Ancora prima abbiamo dei canti di fabbrica che sono stati ricostruiti e ritrovati con dei canzonieri popolari, poi dei canti di battaglia come Fuoco e Mitraglia, dopodiché poi invece il periodo fascista. Quindi è arrivato l'ambasciatore, il pinguino innamorato, parlando poi anche delle orchestre dell'epoca, Barzizza e Angelini, quindi tutta la polemica musicale tra il swing e invece le canzoni più melodiche dell'epoca, e poi fino ad arrivare invece al Quartetto Cetra, alla televisione, al Carosello. Quindi e il Quartetto Cetra che avete scelto come canzone? Del Quartetto abbiamo proprio preso in realtà abbiamo rielaborato alcune loro melodie con nuovi testi, su alcune melodie del Quartetto Cetra, su degli spot pubblicitari che loro facevano, rielaborati, reinventati come finti prodotti commerciali, diciamo, in quel caso. Però sono tutte le canzoni poi sono state riarrangiate e che sono cantate solamente a cappella dalle due interpreti, e cantano tutti i brani a cappella con intervalli di terza, senza strumenti, ricreando in alcuni casi, come per esempio quando reinterpretano Crapa Pelata, per l'appunto, reinterpretano rumoristicamente tutta l'orchestra, facendo i rumori e i suoni dell'orchestra swing, o per esempio nel Tango delle Capinere vengono ricreati i suoni dei telai piuttosto che delle ritmiche del tango, ma soltanto a cappella, soltanto con la voce. Lo spettacolo infatti è molto particolare anche per questo, perché tutto viene fatto dalle due interpreti che rievocano completamente l'epoca e le canzoni e le orchestre. Quindi è uno spettacolo abbastanza impegnativo per le due protagoniste. Senti... Sì, le due attrici sono molto impegnate, Emanuela Avallone e Valentina, Emanuela Belmonte e Valentina Musolino, sì, sono molto brave, due cantanti, danzatrici e attrici veramente molto molto brave. Allora, ricordiamo questa sera Le Jardins de l'Ange, Le Trote Blu a cura del Teatro Instabile. Ecco, perché Instabile? Teatro Instabile di Aosta. Instabile perché siamo quelli in davanti allo stabile, quindi non abbiamo i soldi dello stabile. Quindi ve lo inventate, insomma, dovete cercare i finanziatori. Sì, sì, sì, viviamo vendendo i nostri spettacoli e con piccoli finanziamenti, però Instabile soprattutto perché non abbiamo un luogo e lavoriamo soprattutto portando i nostri spettacoli in giro per il mondo. Allora, Le Trote Blu a cura del Teatro Instabile di Aosta, martedì 16 agosto ore 21:15 alle Jardins de l'Ange a Courmayeur. Ringraziamo Marco Chenevier, che è appunto il regista dello spettacolo. Ciao Marco. Grazie mille, grazie mille. C'è un'orchestra sincopata che è davvero una trovata. Quando suona, suona, suona, il maestro ancora non sa. Detersivo che ti dà di più, il lavatrice non ci pensi più, grazie, meraviglioso, sorprendente, incredibile, luce deluso, ora il presidente, questo è lavatrice. Non saranno forse vere quelle storie su di lei, di Ernesto Molino. Summertime. Andiamo di nuovo a Torre del Lago, perché? Perché questa volta va in scena il teatro, sì, tutti sanno che Madama Butterfly è l'opera scritta da Giacomo Puccini, ambientata in Giappone, ma quasi nessuno, ovviamente a parte gli addetti ai lavori, sa che è stata tratta da un dramma teatrale, quello di David Belasco. E proprio il dramma teatrale, dopo la rappresentazione dell'opera, viene messa in scena al 57esimo Festival di Puccini. La regia è di Vania Bonetti. Buongiorno Vania. Buongiorno. Buongiorno. Allora, che emozione si prova a mettere in scena un dramma teatrale con poi questo fantasma però dell'opera dietro di noi? Beh, certo, è una grandissima emozione, ma diciamo che è stato un viaggio molto interessante, perché proprio ci incuriosiva l'idea di vedere, proprio di mettere in scena ciò che veramente aveva visto Puccini, quindi, come dire, capire questa eroina teatrale che Madame Butterfly, che origine poi avesse da un punto di vista teatrale. Pensavo che Puccini la vide nel 1900 a Londra, mentre si trovava lì a Covent Garden per le prove della Tosca, e l'andò a vedere per ben 3 volte al Duke of York Theater di Londra e ne rimase entusiasta, tant'è vero che proprio si precipitò nel camerino di Belasco, dicono appunto le varie storiografie, quasi implorando e piangendo, chiedendo i diritti. E siccome sappiamo bene che Puccini appunto aveva tantissimi testi da cui poter poi trarre le sue opere, appunto volevamo capire che cosa ci fosse poi in realtà in questo testo, e è stata una scoperta incredibile, perché al di là del testo, che è modernissimo, perché si tratta del secondo e terzo atto in realtà poi dell'opera, quindi c'è soltanto l'attesa, è già venuto il fatto, c'è l'attesa di Madame Butterfly, quindi è tutto un dramma molto interiore, incentrato sull'attesa della protagonista, ma arricchito proprio perché Belasco appunto era un grande uomo di teatro, da musica, da questi grandi effetti di illuminotecnica di cui lui era un grande studioso. E appunto la musica, c'è stato fatto questo ritrovamento dello spartito originale andato in scena nel 1900 e l'abbiamo poi insomma rintracciato alla Public Library di New York, e appunto avremo proprio anche l'esecuzione dell'orchestra dal vivo di ciò che non solo vide ma anche ascoltò Puccini. E come sono le musiche? Ma naturalmente si tratta, non è una musica che possiamo dire di cui Puccini ha tratto ispirazione da un punto di vista diciamo proprio strettamente musicale, sicuramente di suggestione di epoca, è una musica pentatonica, quindi diciamo i primi tentativi di fare una musica di tipo giapponese, e però come, diciamo con delle, si sente anche un po' l'atmosfera dei primi del Novecento, e comunque era una musica incidentale, una musica di accompagnamento che poi ha dato origine poi alle musiche di accompagnamento cinematografiche dei primi film muto. Ecco, infatti Belasco era conosciuto anche per un naturalismo teatrale, no? Sì, lui sì. Poi mette in scena questa che è una tragedia moderna, perché noi ricordiamo che Butterfly è giovanissima e quindi è un po' il primo caso, sì. Si potrebbe dire, di sfruttamento, non di prostituzione, ma insomma di sfruttamento di una persona minore che abita in Giappone e viene sfruttata da quello che è un colonizzatore. No? Sì, potremmo certo, vederla così. Certo, ecco, che certo. Cosa si evince maggiormente dal dramma di Belasco in questo senso? Nel Ma senso da un punto di vista, diciamo, del personaggio, direi che dal dramma di Belasco viene assolutamente fuori tutte le sfaccettature di questa data, cioè perché al di là di quanto appunto appena detto, del fatto che di giovane età, che ha avuto e quindi diciamo che ha avuto quindi uno sfruttamento da parte dell'occidentale, ma anche proprio diciamo una serie di drammi, potremmo dire della perdita, perché questa ragazza ha perso prima il padre, ha perso diciamo la condizione sociale, perché è stata ripudiata dai parenti, perché è diventata molto povera, ha perso poi anche quella che diciamo è quindi la sua come dire identità orientale, per poi appunto cercarne una nuova che è quella americana. Poi perde diciamo anche la sua identità di moglie, perché non si realizza completamente, fino ad arrivare alla perdita come madre del figlio, per cui come dire è un dramma che attraversa tantissime situazioni, quindi è molto complesso da questo punto di vista. Sicuramente con Puccini ha molto in comune questo fatto, per cui Belasco si usava questo diciamo verismo all'estremo per quanto riguarda la rappresentazione, il verismo dei particolari, delle scenografie, anche faceva degli studi molto approfonditi anche sulla cultura orientale, però poi metteva fortissimo al centro del suo dramma l'emozione, che e quindi come dire data da una serie di effetti che poi erano appunto non solo di musica, di luce e quant'altro, come dire in questo si trova un po' il trait d'union con Puccini, questo elemento della teatralità, questo senso molto forte anche di dare vita a grandi emozioni per il pubblico. Che idea c'è dietro? Perché Puccini a un certo punto ha preferito poi creare un atto aggiuntivo che è poi il primo atto? Ma sicuramente per l'opera ce n'è assoluto bisogno, nel senso che mentre diciamo per la prosa e quindi per il teatro va bene il dramma dell'attesa e quindi comunque anche la mancanza di azione si può in qualche modo, insomma può essere in qualche modo fruibile dal pubblico, per quanto riguarda l'opera ci vuole sicuramente più azione, quindi Puccini diciamo ha preso un po' tutti quegli elementi che sono sparsi e disseminati nel testo di Belasco, aggiunti poi anche alla fonte originaria che era la Madame Butterfly di John Luther Long, da cui anche lo stesso Belasco aveva tratto la storia per poi la rappresentazione teatrale, per creare appunto l'antefatto che sicuramente diciamo, arricchisce l'opera senza dubbio. Com'è questa rappresentazione? Io vedo Madame Butterfly e Manuela Congia, Suzuki Alice Bacchi, Sharpless Paolo Giommarelli e Pinkerton abbiamo Simon Blackwell. Sì, degli attori, tutti professionisti, fra l'altro diplomati nelle accademie italiane e non, anche Simon Blackwell è della Guildhall School di Londra, la Bacchi è del Piccolo di Milano, hanno lavorato con registi importanti, fra cui Ronconi, e poi anche esperienze cinematografiche. La stessa Bacchi ha fatto con la regia di Castellito il Dubbio. Insomma, sono attori veramente bravi, molto giovani, però per questo insomma, di grande esperienza. E quindi ecco, come dire, è proprio una novità questa messa in scena, perché c'è un po' tutto, no? Abbiamo appunto il dramma, l'idea di vedere che cosa vide Puccini, sentire la musica per la prima volta, e poi c'è questa atmosfera del giapponismo che riproponiamo, perché cerchiamo di fare proprio una ricostruzione, quindi non tanto di essere filologici col Giappone come è il Giappone oggi, ma invece come veniva vista attraverso quel fenomeno del giapponismo di fine secolo. Quindi c'è un po' questo sapore vittoriano anche fatto dalle scenografie e i costumi disegnati da Angelo Bertini. Quindi chi si mette in platea deve avere questa sensazione, la sensazione che ebbe Puccini, cioè sembra di stare in un teatro del 1900? Sì, l'idea è un po' questa, sì, sicuramente, naturalmente con i mezzi che oggi abbiamo, quindi per quello che si è potuto recuperare, per esempio all'inizio del dramma ci sono, Velasco aveva fatto scorrere dei pannelli dipinti con dei paesaggi giapponesi, sono dei rulli di carta, quindi noi perché era un po' come dire già cinematografico, aveva questa idea, no, di presentare un po' l'immagine del Giappone per poi aprire uno squarcio sulla casetta di Butterfly, e quindi diciamo questo sapore proprio di ambiente dell'epoca, ma noi lo riproponiamo naturalmente con delle proiezioni sempre però di immagini d'epoca dipinte, però semplicemente proiettate sempre in verticale, insomma abbiamo fatto un po' un lavoro di studio riproponendolo con i mezzi di oggi. Allora, soprattutto, scusi, però l'ultima cosa che è la cosa più interessante, perché Puccini ha fatto poi il coro muto ed è nato proprio dall'attesa che Velasco propose al pubblico per questa rappresentazione, che durò ben 14 minuti di silenzio, cioè che Butterfly attende muta l'arrivo di Pinkerton presso lo Shosi e trascorre praticamente nel dramma in 14 minuti dal tramonto fino all'alba successiva, e proprio da questo silenzio della protagonista è nata poi per Puccini l'idea del coro muto, e quindi riproporremo anche questa sfida di allora, insomma, la riproponiamo tutti i 14 ora. Minuti? Quasi, diciamo. Ecco, diciamo. Allora, Madama Butterfly di David Belasco, non di Giacomo Puccini, quello che vide Giacomo Puccini in quel famoso viaggio a Londra, e il dramma di David Belasco, questa volta eccezionalmente il 16, il 17 e il 19 agosto al Festival Puccini a Torre del Lago, regia di Vania Bonetti. Grazie Vania. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. Summer Time. E adesso noi andiamo in una località sconosciuta e più che però ha dato i natali ad un grande scrittore americano, Torricella Peligna, in provincia di Chieti, paese d'origine proprio di Nick Fante, il padre dello scrittore americano John Fante. E Il Dio di mio padre, dedicato proprio a John Fante, è un festival che si svolge dal 19 al 21 agosto proprio a Torricella Peligna, organizzata da Giovanna Di Lello, direttrice del festival. Buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, questo paese che ha dato i natali al papà di John Fante, insomma, si diventa un po' il fulcro della vita italo-americana, perché ci saranno i figli dello scrittore, poi ci sarà una Lectio Magistralis di Gianni Vattimo. Ci spiega che cosa succede? Allora, sì, è da questo, noi siamo alla sesta edizione di un festival letterario organizzato dal comune di Torricella Peligna proprio per omaggiare il figlio di Nick Fante, che partì all'inizio del Novecento da Torricella Peligna, muratore in cerca di lavoro negli Stati Uniti. Ecco, e quindi è da 6 anni che invitiamo personaggi importanti, sia nazionali che internazionali. Ogni anno c'è la presenza della famiglia di John Fante, dei figli, e poi quest'anno abbiamo la fortuna di ospitare Gianni Vattimo, che ci farà appunto una lectio magistrale sul tema del racconto. Poi avremo anche un concerto del jazzista Enrico Rava, che è un estimatore dell'opera di John Fante. E ci saranno comunque altre attività, sono 3 giorni intensi dalla mattina alla sera con eventi letterari e non, ci sarà anche una premiazione, perché all'interno del festival Il Dio di mio padre abbiamo previsto un premio letterario dedicato agli esordienti. Quest'anno i 3 finalisti sono Federica Tuzzi con il suo romanzo Non ci lasceremo mai, poi Giuseppe Schillaci con L'anno delle ceneri e Claudia Durastanti con Un giorno verrò a lanciare sassi alla tua finestra. Quindi una giuria popolare sceglierà il migliore, ecco. Quindi molti eventi. Avremo anche un incontro con il critico letterario Antonio Durrico. Poi ecco, dedicheremo, per quanto riguarda John Fante, una sezione al cinema fantiano, perché John Fante è stato sì scrittore ma anche sceneggiatore. Lui per 40 anni ha lavorato a Hollywood e quindi sceneggiato film per Edward Dimitrich, per esempio, ha lavorato anche per Dino De Laurentiis, è stato 2 volte in Italia per lavorare per questo produttore importante. Quindi ecco, diciamo un festival piuttosto ricco, che in qualche modo il comune sta portando avanti con orgoglio e, come dire, ecco, quindi noi vi aspettiamo tutti. Faccio davvero, spero che quest'anno, noi siamo molto fortunati perché abbiamo pubblico, ecco, e speriamo che quest'anno sia così, sia come negli altri anni. Ecco, lui è autore di vari romanzi, no? Tra cui sì. Chiedi alla polvere, La confraternita sì. dell'uva. Lei qual è il romanzo che l'ha colpita di più di John Fante? Ma a me è piaciuto moltissimo La confraternita dell'uva, perché appunto spicca questo personaggio che poi è la musa, diciamo, di John Fante, che è il padre, ed è un romanzo commovente, perché appunto parla del rapporto tra padre e figlio, un rapporto controverso ma intenso. E però devo dire, a me ciò che piace di John Fante è l'ironia, un'ironia che molti come dire apprezzano, e che in realtà più che ironia si dovrebbe chiamare umorismo, è l'umorismo di tipo pirandelliano, ed è un umorismo tragicomico, e che in John Fante è presente in tutte le sue opere, e quindi è proprio lo stile di Fante che beh, mi piace, ecco. Allora, la sesta edizione, giunto questo festival, dal 19 al 21 agosto a Torricella Peligna in provincia di Chieti, Il Dio di mio padre, un festival dedicato a John Fante. Ringraziamo Giovanna Di Lello, direttrice del festival. Grazie. Grazie a voi. Piove il cielo sulla città. facciamo un appello a tutti coloro che vengono a Roma a visitarla in questo agosto caldo, oppure che rimangono in città, perché in questa città, insomma, Caput Mundi si diceva un tempo, adesso non si sa nemmeno se è la capitale dello Stato italiano, ci saranno però delle visite romane che ogni sera ci accompagnano per escursioni che possono essere fatte alle 20:30, rigidamente l'appuntamento è sempre quello, per scoprire le varie Roma. Organizza tutto Marina Giostini, archeologa di Spazio Libero. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, ho detto bene, l'appuntamento varia, ho visto, perché dipende da dove andate. Se andate per esempio alla Colonna Traiana, l'appuntamento è a Via dei Fori Imperiali, se andate alle case medievali, Vicoli, Reggente, Portico d'Ottavia, l'appuntamento ovviamente a Portico d'Ottavia. Ecco, ci vuole spiegare cosa succede? Ogni sera voi portate a spasso turisti e romani? Soprattutto romani, perché abbiamo scoperto che i più assetati di conoscere Roma nelle sere d'estate sono proprio le persone che rimangono in città e forse hanno più tempo, hanno più disponibilità o più voglia di scoprire quello che durante l'inverno e durante il giorno ci passa sotto gli occhi e non abbiamo il tempo di ammirare. È un'iniziativa che va avanti già da alcune estati con grande successo e ogni sera proponiamo una visita diversa. Passeggiata serale anche con letture di testi, io leggo. Ai piedi della Colonna Traiana, riti magici e culti iniziatici al tempo di Traiano. Che cosa fate? Leggiamo dei testi legati al periodo storico di Traiano e in particolare l'Asino d'oro d'Apuleio, che ci dà tanti spunti per approfondire non solo l'archeologia e l'arte, ma anche i costumi, la società, la religione, una visione complessiva di tutto il periodo. Quindi questo per quanto riguarda Traiano. Poi leggo tra i vari appuntamenti Marco Aurelio, imperatore, filosofo e i misteri egizi dell'obelisco. Piazza Colonna, ai piedi della Colonna Aureliana. Questa passeggiata serale con letture di testi. Ma non è che magari a Piazza Colonna, visto che sta proprio davanti a Palazzo Chigi, leggete anche dei testi che possono essere sentiti dal nostro governo come stimolo? Magari gli antichi possono illuminarci. No, però alle case romane del Celio facciamo una visita con intermezzi teatrali in cui diamo voce ai testimoni del tempo, a Marziale, a Giovenale, che si lamentano della vita a Roma, si lamentano non del governo, perché all'epoca non si poteva esprimere un giudizio così forte, comunque si lamentano della vita quotidiana. La filosofia è proprio quella di cercare dei testi dai quali trarre poi uno spunto di riflessione più generale. Ecco, per esempio, case medievali, vicoli e leggende del Portico d'Ottavia. È una piacevole passeggiata nella zona del ghetto, la storia del ghetto, la sua chiusura nel 1570, l'apertura, e la vita degli ebrei all'interno del ghetto e tutto quello che riguarda questa zona. Poi insomma vedo sante donne illustri e popolane tra le strade di Trastevere, quindi qui addirittura che cosa fate? Una visita al femminile. Seguiremo un percorso in cui le protagoniste saranno esclusivamente donne, non i partecipanti perché è aperta a tutti, e scopriremo la casa di varie sante, o il luogo del martirio di varie sante come Santa Cecilia, parleremo delle eroine del Risorgimento ai piedi del Gianicolo. Insomma, ce ne sono di tantissime, no? La Garbatella, storia di un quartiere popolare, cioè andate anche nei quartieri nuovi, tipo l'Eur 1942, sì. Insomma, non è solo una passeggiata nell'antica Roma, ma anche nella Roma moderna. Io però tutto ciò che vale la pena di visitare a Roma, quindi tanto, ossia tutto. E quindi io vedo praticamente che voi andate avanti fino a fine settembre e quello che mi domando, lei che le fa, che le organizza, cioè c'è una cosa, una passeggiata che le sta più nel cuore, oppure sono tutte belle, però una che magari le piace di più perché la gente si incuriosisce, non sapeva tante cose? Tutte. Ah, ecco. Non sono io a farle tutte, abbiamo ottimi collaboratori, però per la mia esperienza e per quello che mi mi riferiscono ogni visita, alla fine abbiamo la soddisfazione di persone che ci dicono: ah, che bello, non immaginavo tutto questo. E questo è il ringraziamento migliore che abbiamo. Come si fa a partecipare? È semplicissimo, basta mandare un'email. Ho tante altre informazioni, le trovate sul sito che è www.spazioliberocoop.it. Allora, www.spazioliberocoop con due O tutto quanto attaccato.it per passeggiate romane. Ricordiamo, da oggi fino alla fine di settembre, poi addirittura avrete un weekend speciale ad ottobre ai Sassi di Matera, e quindi insomma non solo Roma, ma vi allargate. Però soprattutto per scoprire questa città, sia per i romani sia per coloro che sono in visita. Grazie a Marina Giustini. Grazie a voi, buona giornata. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.